La tendenza sì è un pochino quella dello smartphone, però non soppianta poi del tutto la vendita del telefono poi tradizionale, perché mediamente, diciamo, l'acquisto di un telefono varia, siamo sui 100-150 euro. Non si può tracciare una mappa di chi compra quale telefono, è molto variegato il panorama. Tra l'altro, a volte riserva anche delle sorprese. Alcuni telefoni molto curati esteticamente, che sono stati studiati per le donne o esclusivamente per le donne, avendo magari degli Swarovski, degli specchietti nella parte posteriore. Ci è capitato e capita a volte che vengano richiesti da una clientela maschile, magari anche avendo un'età non proprio giovane, diciamo. Lo smartphone, quindi i nuovi cellulari, stanno un po' prendendo il posto di altri prodotti, le fotocamere digitali piuttosto che il navigatore satellitare, l'iPod. Ci si sta arrivando, sì. I telefoni cellulari, visto che si cambiano spesso, vengono rottamati. La rottamazione viene vista ancora quasi esclusivamente per i prodotti che creano ingombro. Il cellulare invece viene visto come qualcosa che può essere comunque riciclato, però all'interno, per esempio, della famiglia. È un settore di mercato su cui puntate. Sì, senz'altro è in crescita. Oltre all'acquisto del cellulare, poi c'è tutta una sorta di accessori.